vogliono farti parlare, e adesso è un periodo un po' brutto. Io lo stesso ho passato diverse notti senza dormire, con questa tosse secca, per carità, ho fatto anche l'aerosol. Sì, come si chiama già il periodo? Sono bambini, gente grande, influenzata, hai capito? Non è che, no, io bene o male, già sono come l'asino, sono pronto un punto, non prende nulla. Vabbè, ma comunque a me mal di gola che poi tutti, tutti i dolori sono brutti, mal di denti, mal di gola, mal di testa, ma mal di gola è una cosa, vabbè, comunque sia, non fa mai in uno nell'altro, proprio dicendo che è tondo, ma mal di gola questa volta, mamma mia, proprio infiammata, è come se fosse, sai, cioè pensa già, tu prendi un, cosa adesso, visto che gli accendini lunghi per accendere il forno, no? Quelli lunghi, quello è troppo bene, lo accendi e te lo butti nella gola, così, così è la mia gola, uguale. E lo so, l'ho avuto anch'io, non lo so, prova a prenderti il miele, non ne hai. Ma non si mangia capa a miele, ma si mangia un baratto, non ne ho. Latte caldo, caldo col miele sciolto dentro. Non lo so, Marco, lì forse è il primo. Capo, lo so, mi fa schifo, però ma ci ho mangiato un baratto già. Il miele è eucaliptus. A favore. E allora l'unica cosa, c'è in farmacia uno spray, che adesso non so come si chiama, te lo spruzzi nella gola e ti fa passare il mal di gola, quello lì è efficace. No, non lo metto in dubbio, però cazzo, non posso spendere soldi, io non ho quei soldi, no? Non posso. Devo anche. Non so. Non ci sono soldi. Devo arrangiarmi così. Anzi, domani guarda mi compro un altro barattolo di miele. I medicinali costano, sembra così. Cioè, l'altro giorno mi sono preso, ieri, anzi no, l'altro giorno, dal medico. Mi sono ordinato occhi. Quello è la verità, guarda, aiuta, sono forti, però, per fare la mano di Dio. In questo periodo c'è un bel di gente in cicciata a Maligola, anche un altro tipo che conosco. A me era venuta varie settimane fa, vi dico la te, che a me quella voce così. È brutto, diciamo, questa è la ricaduta, sia Maligola che tosse. Però la prima volta mi mancava la voce proprio, ce n'era poca. Questa volta invece la gola mi ha proprio incendiata, mamma mia. Un casino, vabbè. Purtroppo se c'è, a noi vivi, a molti non succede niente. Comunque, ascolta, nessuno di voi vedeva il telefilm Shameless su LA5, no? Pare di no. Dopo che noi non ne guardiamo mai il Rai, guardiamo sempre il canale 5, oh, Italia 1 oppure al servizio di Malarra non le guardiamo mai, D-Max. Ma è una televisione di Stato, quindi il canone è tutto, capito? E purtroppo, però... E che c'entra? Non dicevano 20, minchia, non passa più il tempo. Dopo c'è un bel film, Mi per dormire, di orrore, La cosa, con Kurt Russell. Dove? Marco, ma ti arrivo a casa tua dopo? Ma ci arrivo dopo il 10? Ah, 9.25, con lo smicker del Kenwood, 9.25. Va bene. Quella portata è muta, prova tu Gianni. Io. Guarda, allora, 9.15 portante muta, 9.20 modulati. Va bene, adesso sei più vicino con Luca. Sì, Luca è allucinante, praticamente per esempio tra lui e Via Gorizia c'è il vuoto, c'è tutto quel vuoto lì del fosso del Ponte Nuovo, quindi a me è un tiro di balla proprio. Guarda, quando io sono in macchina su a Lunesole, Luca mi dice sempre che arrivo 9.35, 9.30, quindi ha proprio lo spazio libero. Ecco, sono chiuso dappertutto, già sapete dove abito, perciò almeno da Marco o da Salvatore non penso che da Salvatore mi passi qualcuno. Lui come può passare a Secchi, a Adriano, se no non passa nessuno a Salvatore. Marco, e tu che cosa stai combinando? A parecchi vista ne hai. Ma sono sempre i soliti già. Alla fine in Italia sono sempre superstar 3009 che riescono a sopravvivere ai decenni, poi c'è qualche 69, i soliti sono, poi qui President Jackson 2 che no, sì, President Jackson 2 che non è nemmeno paragonabile al primo, su tutti SND, tutti molti apparecchi da noi non arrivano, poche parole Migia, non arrivano, sono americani e non arrivano, se arrivano sono importati dai singoli venditori, tipo Franco di Lucca. Garanzie, cioè finché le importa la Proxed, che è una ditta che importa roba, ti dà la garanzia lì, ma per esempio i CRT famosi che io ti dicevo che sono francesi, li portava Franco Montagnani, no? Però non li portava un'azienda vera e propria, e praticamente non c'era un'assistenza ufficiale, cioè quelli importati da Montagnani ti assiste Montagnani, no? Franco, che sappiamo certe volte come assiste gli apparati anche. E come Marco, come dicevi? No, a Gianni stavo rispondendo. Per esempio adesso il Magnum C9 lo sta importando la Proxel, capito? Mentre prima li portava Montagnani di Lucca, no, Magic From, li importava lui di persona, l'assistenza la faceva lui, adesso li importa la Proxel, e l'assistenza la fa la Proxel, che è un'azienda che importa un sacco di prodotti, importa l'Omega Force, importa l'S9, importa i Jopix che sarebbe Superstar 3009, più antenne di ogni tipo, alimentatori eccetera, quindi hai una garanzia ufficiale non di un singolo venditore, capito, ma di un'azienda che importa un bel po' di prodotti, come fosse la CTM, la CTE italiana che porta a Midland. Ok, Montagnani, questo è il figlio di Aglio sicuramente, ma quelli sono dove importare, perché è una vita che facevano questa, che fanno questa roba prima, sicuramente il figlio di Aglio Montagnani che portava anche la roba, il surplus militare, dopo la roba dei primi anni 70, che anni 60, hai capito? E quindi sanno come fare, perché se il figlio di Angelo, il padre l'avrà addestrato bene, hai capito? Quindi non hanno problemi. Ok, segnale mio come stasera, Marco, visto che c'è il capo attaccato, buono o scarso? Allora, 8.5 modulati 9. Allora, già stiamo andando bene. Ok, perfetto. Perfetto, poi siamo accordati bene. Anche se poi questo non è neanche l'accordatore, questa Sony o come si chiama, c'ho un po' di mal di gola, se continuo a parlare sarò fermo dopo. Là dove posso mandare chipirina è l'acqua, perché poi durante la notte se prendo un'altra pastiglia, così mi devo lasciare a malincuore, visto l'ora tarda stasera, hai capito, non sono neanche entrato in frequenza perché la cosa di cavolo ci tenevo tantissimo andare lì. Saluto Luca, saluto Gianni, saluto a te Marco e tutti gli amici che sono in ascolto su questo canale. E apri due passi in quel RTSK, rimetto il tutto a Luca, guardi Luca. Papà, ciao Gianni, apri due, salutoni. Buonanotte, buon tutto, ci sentiamo domani. Avanti Marco. Papà, ciao Gianni, ci sentiamo le prossime. Buonanotte. Avanti doppio Roma. Sì, ciao, già ci sentiamo, buonanotte. Questa volta si salutando a me Marco. Avanti Luca. E io via nulla, già ci ha bloccato, ma che? Un attimo, un flash, un pochino si sente. Ha avuto il flash per un attimo. Devono essere quelle pastiglie. Pastiglie? Cos'è? Metanfetamina, shisho, marijuana, LSD. Ma io certe volte prendo sonnifero, ma certe volte l'organismo resiste, non so perché. Certe volte invece panni, sì, passi dal sogno, sì, e la fanno pure lì. Passi dalla veglia al sonno senza accorgertene. Come la morte. Vabbè, la lingua avete perso. Dai, che la notte è giovane, c'è tempo fino all'alba. Per chi non lavora, sì. Vabbè, così è vero. Ahia, comunque il PC è sistemato adesso, del tutto. Mi mancava un drive, dai, il video, l'ho scaricchiato, installato. Ma se il PC è una bomba. Ma così ti vivono un computer. Un portabile. Chi vuole un portatile? È un portabile, un portatile, un Acer. Ma chi lo vuole da comprare? Ok, e pensa che il mio Acer, il mio portatile l'ho, da quando il tablet l'ho lasciato l'ho buttato nella stanzina della roba vecchia, proprio come ci faccio a cacca. Chiuso in valigia, però ogni tanto devo toglierlo per forza per caricare la batteria, se no si interrompe. Oh, ho capito Marco, c'è abbassa un po', cazzo, cosa hai detto? Come abbassa? Qua è impostato al solito modo. Dicevo che da quando il tablet, il computer portatile, l'ho tratto come se fosse cacca, l'ho messo nello stanzino della roba vecchia e non lo sto più usando. Positivo, dai. Vabbè, comunque. Ma questa oggi non sta qua. Ah, ecco. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, un affare, cioè, è messo nuovo. È nuovo. Che ci qualcuno interessa, fammi sapere. Ma stavo cercando, ma non mi ricordo chi, procuravo un portatile, cioè, non so come cacchio fanno, un PC piccolino, io non ci riesco, è più forte di me, non mi viene troppo male, ma ce l'ho abituato al grande. Come fanno un PC piccolino, in che senso Luca, come lo costruiscono? No, come fanno a usarlo? No, non ci riesco io, mi viene ben male. Ah, e cioè stai dicendo mini portatili? Allora, io dei mini portatili avevo preso l'Asus appena era uscito, era uno dei primi mini portatili, però a dire la verità mi trovavo abbastanza male Luca, era piccolo lo schermo, poi eri costretto a appoggiarlo come un portatile e mi dà fastidio. L'ho venduto nuovo un anno dopo. Invece col tablet, per quanto sia piccolo allo stesso modo lo schermo, mi trovo meglio, perché primo non lo devo poggiare e poi non so che dire, più pratico, te lo metti nella tasca della giacca, te lo porti dove vuoi, non lo devi poggiare da nessuna parte. Era proprio questo il tablet, adesso io ne ho uno da riparare, devo ordinare il touchscreen, sapere qualcosina, l'ho visto, aspetta, non so se accetta pagamenti o la posta, vediamo. Non so, aspetta un attimino, già, ma quasi siamo noi due, già ne si è aumentato. Allora, un attimo, non so, no? Oh, fanculo. Aspetta. Dove cacchio dovrebbe essere qua? E B. No. Asus. Batteria laptop, touchscreen, eccolo qua, no, non è quello, batteria, display completo originale, no, questo no, l'avevo salvato, ma se l'ho cancellato. Perché, vabbè, comunque mi sa che costa un 25-27 euro, una cosa del genere. Cos'è un 7 pollici? E che marca è? 9, marca, ce l'ho là, adesso nel cassetto. Adesso non mi ricordo, aspetta, ciò qua, se aspetti 2 secondi per guardare, allora, Samsung Galaxy, questo lo cancelliamo perché non mi interessa più, eccolo qua, in, come si chiama, in, allora elimina, aspetta, ecco qua, allora, eccolo qua, allora, aspetta, l'ho malato se non sbaglio, no? Eccolo qua, no, la 7, no, la 7, la 9, eccolo qua, Regno Unito, 27 euro, 9, 9 pollici, parte di cambio, touch, adesso, c'è questo qua comunque, perché l'ho già smontato, e poi l'ho richiuso, da Regno Unito, 27 euro. Ma il display? È dal Regno Unito, è un casino però. Display, touchscreen è rotto. Ehi, touchscreen, io lo chiamo display, schermo, come lo chiamare? Ma arriva dal Regno Unito, è un po' un casino però. Perché se poi c'è un problema arriva rotto, e costa un bel dall'Italia al Regno Unito spedirlo. Ricordati, spedire dall'Italia all'estero è sempre carissimo rispetto dall'estero all'Italia. Vabbè, guarda, vabbè, i trattino, aspetta, che cazzo si chiama, aspetta, allora, affanculo sto cazzo di mal di gola, ogni tanto schermo qui, ma che cazzo è, acqua, touchscreen, eccolo qua, adesso lo devo riaprire, vabbè, comunque è quello la marca, aspetta un attimino, i-in, sì, lo conosco, i-in dovrebbe pronunciarsi, è un nome mengue però, passi Lenovo, passi Mediacom, io ho il Mediacom, è un'azienda cinese, praticamente costava 179 e faceva più di quello che faceva il Samsung, che costava 250, e non mi posso lamentare. Allora, questo qua hanno pagato un centinaio, ed è quel tipo che è quel tipo, più che quel tipo è la moglie, che praticamente la lascia da questa amica sua, che è una mia vicina di casa, ma no, sono degli punti, no? E c'ho ancora la PSP, ti ricordi il famoso display che avevo ordinato tu? Ed è ancora qua la PSP, praticamente non comanda, cioè non comandano i tasti sinistri, ecco, quelli per far muovere andare, ecco, non fanno. Poi c'è il corpo che ha preso, è troppo. E comunque sia, non so quanti più sentire, ma è 45 euro di manodopera, pensa tu. Magari sono anche amici. Amici di questa mia amica, sì. Adesso c'ho di loro il tablet, insomma, ma da posto, come quello, voglio per loro. Se no, loro vogliono, la PSP gliela torno così, io non ho parole, voglio, e mi tengo il tablet. È un casino, boh, a parte che già per te l'avevo detto già per ordinare i pezzi bisognerebbe dirgli, allora bisogna ordinare un pezzo, il pezzo costa tot, dammi i soldi e te lo ordino, se no non esistono. Vediamo se c'è Gianni ancora, Gianni l'ascolto, Gianni riprendi, e forse si è addormentato, vabbè, io sto per andare a mangiare, Luca. Ah, tra pochino mi assento, sto vedendo che questo continua a salire di watt, cioè scalda, più scalda più da watt, solo che ogni volta sto abbassando il watt e continua a salire, ci sta un bene a scaldare anche modulando questo apparato, a me è una cosa che mi sembra assurda. Un transistorizzato che deve scaldare come valvolare per uscire più forte, l'ho avuto anch'io, eh. Poi se non è ci mette molto, ma sta lasciando acceso e lui è sempre pronto, se tu lo spegni è normale che lui ci vuole tempo, scusa, ma ecco lì, io lascio acceso il mio, ed era pronto, poi devo vaccare, bombo, adesso mi ricordo. Io usavo anche le MB+4, pensavo che usciva bene, giusto? Dove MC60 e MC60, però anche con le MB+4 usciva bene. Eia. Guarda, sto parlando con voce pacata, io parlo più piano di come parli tu. Prima mi hai detto che era troppo forte, ma è davvero troppo forte. Guarda, sono a una distanza di 40 centimetri. Vabbè, tutto lascio sempre acceso, mica ti consuma corrente. Quando non è bambini, non ce ne sono. Abbassi il volume e lui rimane sempre, lei rimane sempre calda. Poi se tu lo spegni, non lo so. Certo, lo devi spegnere solo quando c'è mal tempo. Sì, Luca, questo era acceso tutto il giorno, dalle 2 di pomeriggio era acceso, col volume al minimo, come hai detto tu, però si scalda un po', però più moduli anche più scalda, soprattutto modulando scalda, adesso è salito di più, è salito a 12 watt mi pare, io lo voglio a 10 watt tondi, adesso lo abbasso ancora un po', vediamo un po', ancora un po', voilà, guarda un po' come il segnale 10 watt porta anche multa. Ma quasi sempre tra il più al 3, nel più 30, perciò non c'è differenza, anche se tu dici con 5 watt il segnale è sempre quello, non puoi fare prove con me, sono troppo vicini, ma così, capito? Ma boh, se devi andare qua, là, tranquillo, tanto io adesso spengo tutto qua, computer, quando tu vai, e ci vanno a far culo a tutti. Anche noi ci più qua. Allora ci sentiamo domani, dai, tanto già ci abbiamo fatto e niente. Salutiamo gli ascoltoni, sono tanti, tanti, tanti. Meglia, però tutti ascoltano, nessuno vuole entrare. Vabbè, forse abbiamo fatto discorsi un po' più impegnativi con la storia dei figli. Ascolta. e poi figli c'è una rottura di coglioni, ho detto in nuove parole, ci sono belli, quello che vuoi, però se non rompi i coglioni, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao Luca, ciao Gianni, chiunque faccia l'ascolto. Buonanotte Marco, domani ciao.